al core mio. È tardi e verrà mio padre. La signora è partita, l'attendeva un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva. Il sotti calma. Che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma Annina lo impedirà. Qualcuno nel giardino gliel'ha. Il signor Germont. Son io. Una dama da un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto. Di Violetta. Perché son io commosso? A raggiungerla forse ella mi invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questo foglio. Padre mio, mio figlio, oh quanto soffri, o tergi il pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e vanto. Salvare il suo fido il cor ti cancello, fido il cor ti cancello, di Provenza salvare il suo, qual natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò. Al natio fulgente sol, ora me ne tapor nel duol, chi di gioia te brillò, e che pace cola sol, su te splendere ancor può, e che pace cola sol, su te splendere ancor può. Dio mi guidò, Dio mi guidò, Dio mi guidò. Tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, il tuo vecchio genitor, che lontano di squallor, il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallor, ma se al fin ti trovo ne cor, se in me speme non fallì, se la voce dell'onore esaurì. Ti trovo ancor, ti trovo ancor. Dio m'esaudì, Dio m'esaudì. Ne rispondi di un padre all'affetto. Ah, ed alla festa, quale se offesa vendicar? Falsità. La volpe la sentino, non abbandona il video, ma che se il mio giudizio, o vi farò mentir. Ma che se il mio giudizio, o vi farò mentir. Ma che se il mio giudizio, o vi farò mentir. lenta, volle lente in amore. Ma quanto bella ti presenta, così a giovane vago. Cinque, avrò di nuovo un soggiorno, e bene che alla madre fa, e se ti vince a tuo ritorno, ma e vado di nuovo tornà. Si mi disse la tanto, e padre ciò fremosse che, si ripetava i dici fare, solo il cadere la vedi sempre. Si ripetava i dici fare, solo il cadere la vedi sempre. Thank you.